E iniziamo puntuali, è suonata la campanella, almeno identificato con oggi l'inizio ufficiale dell'elezione per i ragazzi, per le ragazze studentesse e studenti che si approcciano alla stagione 2023-2024. Poi non so, ai miei tempi era per San Remigio, il primo ottobre, da cui noi venivamo chiamati i remigini. Ecco, così abbiamo, l'ho detto almeno 10 volte, però con l'età si continuano a ripetere le stesse cose, ma noi, per variare almeno i contenuti, e ci mancherebbe, oggi avremo non solo una sorpresa grazie a Silvia, ma avremo anche due pubblicazioni che metteremo in palio per voi nella puntata odierna, come ben sapete, risolvendo il quiz al 333-180-9494. Quindi l'aula è completa, il bidello già presente, con noi la nostra prof Silvia Albertazzi, alla quale do il buongiorno. Buongiorno Silvia. Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti. Anche per te era il primo ottobre, il primo giorno di scuola. Come no? Immagino. Certo, primo ottobre. E non so, giusto per essere così, il primo ottobre c'era anche sempre in televisione la trasmissione del mago Zurlì. Per i remigini. Esattamente. E la fine è il 15 giugno, lo ricordo particolarmente perché data del mio compleanno, comunque per festeggiare la fine della scuola e l'arrivo dell'estate. Abbiamo un anno davanti, quindi insomma lo affronteremo insieme con una buona compagnia. Quale miglior compagnia? Quella di una buona lettura. Oggi ne abbiamo due addirittura, ma una ha una particolarità, un'idea bellissima che ha portato Silvia. Si è presentata con un libro che, dico, metti in palio, poi estrae dalla borsa un pacchetto regalo. Dico, ma che libro è? È il libro definito libro sorpresa. Ci puoi dire qualcosa di più? No. Ah no, certo. Sul libro sorpresa assolutamente però no. Però su questa idea, ecco. L'idea mi è venuta perché io parlerò di un libro molto bello, molto importante, che però non metto in palio. Ok. E allora mi dispiaceva non mettere in palio nulla. E così ho preso un altro libro assolutamente nuovo, intonso, diciamo. Sì, non ha vuotato la cantina. No, per voi. No, no. Però è un romanzo di cui abbiamo già parlato qualche tempo fa, un romanzo americano molto diverso da quello di cui parlerò oggi, e l'ho incartato proprio perché chi partecipa al mio quiz vince un libro a sorpresa. E non, chiaramente non magari sa che cosa gli capiterà, però può stare certo che è un libro, è un bel libro. Perché noi qua non parliamo di libri brutti. Esattamente. E quindi cominciamo. E abbiamo anche della bella musica, fra l'altro. Tu, Silvia, non hai idea del regalo che mi fai. È la prima cosa che ti chiedo. Molto maleducato, ancora prima di darti il buongiorno, hai portato la playlist. Perché per me è un fondamentale, dopo 11 anni di playlist mattutine, se qualcuno mi dà una mano diversificando. Ma certamente tu devi sapere che noi ci divertiamo molto con il notaio proprio a scegliere i brani della playlist, che devo dire ultimamente sono quasi tutti suoi, insomma, sono quasi tutte sue ne scelte. Ne approfitto per salutare Stefano. Però noi iniziamo con la letteratura e con le presentazioni ufficiale per oggi 13 settembre 2023. Quindi la playlist letteraria si apre con... Si apre con un romanzo molto importante per le letterature postcoloniali francofone, cioè in lingua francese, che è I soli delle indipendenze di Amadou Kourouma, Edizioni E.O. Dunque un romanzo importante perché è uno dei primi romanzi che trattino dei problemi della decolonizzazione. E infatti fu scritto e fu pubblicato per la prima volta nel 1970. Non mi risulta che sia stato mai tradotto prima in italiano, se non forse dallo stesso E.O. una quindicina di anni fa, quindi è stato tradotto molto molto tardi rispetto alla sua uscita. Ed è un libro importante, dicevo prima, perché è una grossa satira appunto sui mali dell'indipendenza, su quello che succede in un paese che è stato coloniale, è stata una colonia, in questo caso una colonia della Francia, dopo che ha conquistato l'indipendenza. Improvvisamente indipendenti nascono i problemi. Nascono i problemi perché? Perché chiaramente è un'indipendenza che diciamo, in nome della libertà del bianco, dal bianco, della libertà dai bianchi, diventa uno strumento di sopraffazione da parte della fazione che ha vinto. Quindi questa è la storia di un personaggio chiamato Fama, che forse Fama, che era che è l'ultimo discendente di una antica stirpe, un'antica tribù Malinké, il quale nella sua giovinezza è stato sotto il regime e la colonia francese, è stato ricco, viveva nell'agio, nel lusso, e paradossalmente dopo l'indipendenza scivola verso il basso fino a diventare quasi un accattone. Questo, a differenza, lui a un certo punto è entrato in politica, ha combattuto contro i francesi, ha partecipato a tutta una serie di eventi contro i francesi, ma a differenza dei suoi compagni, diciamo così, di lotta, più abili dal punto di vista politico e più scaltri soprattutto, lui non è riuscito a conquistare un posto al sole, anzi ha perso tutto quello che aveva. Ecco, si ritrova a star peggio di prima. Ma molto peggio di prima, proprio si ritrova a essere l'ultimo degli ultimi. Ecco, raccontato così uno può pensare che sia un libro, che so, una storia neorealista, una storia naturalista. Triste. Ecco, no, cioè, non è allegra chiaramente, però non è un libro, diciamo così, realista e di un realismo cupo, proprio perché non è un libro occidentale, quindi è scritto nello stile e nei modi della cultura malinché. Quindi è per questo che è un libro molto importante, perché è un'opera che praticamente è scritta sì in francese, cioè noi la leggiamo in italiano, certo, ovviamente, tradotta, ma usa il francese per esprimere il malinché. In altre parole, per questo autore il francese è soltanto una lingua di traduzione. Sì. E te lo dimostra fin dal titolo: I soli delle indipendenze. Ora, i soli non sono tanti soli, tanti sole. Tanto astro sole. Ecco, no. No, sono le persone sole. No. Neanche. No. I soli sono le ere. Ah, le epoche. L'epoca. Nella lingua malinché il tempo si misura a soli. Però pensa, c'è un gioco di parole, un calambore che ci riporta anche, se vogliamo, a un'attinenza a quello che tu hai anticipato in presentazione, perché i soli dell'indipendenza, questo è un personaggio che, hai detto, ultimo tra gli ultimi, diventa una persona magari non esattamente acclamata, una persona sola, ecco, quindi sì, non potrebbe, c'entra nulla, però no, perché poi tu lo devi pensare in francese. Dai. In italiano noi possiamo fare il calembour, ma in francese è le soleil. E le soleil. Che non è chiaramente. Che non è solo. Solo. Del resto lui non è solo. Lui ha una moglie anche molto bella, che è lei che lo mantiene alla fine. E lo mantiene andando a vendere il riso cotto con un lavoro molto molto umile. Molto umile. E questa moglie, Salimata, che è rinomata per la sua bellezza ma anche per la sua bontà, una donna buonissima, lei non riesce a dargli un figlio. Più avanti il romanzo più ci rendiamo conto che forse la colpa che forse è lui a essere sterile, però sta di fatto che sono sposati tanti anni e non hanno un bambino, e non avere un bambino significa per lui non avere un discendente per la sua stirpe, che la sua stirpe muore con lui, che lui è l'ultimo di questa stirpe ed è pure sterile. E per lei significa non essere completa come donna, secondo la logica, la tradizione. E tutto il libro è improntato su queste tradizioni. Lei, per avere il bambino, non va dal ginecologo, insomma, anche perché no, loro vivono in città, però sono legati alle tradizioni ataviche. Quindi va a dei riti. Fa dei riti, prima di andare a letto fa delle danze, delle strane, certo, cose, si cosparge di strani oli, ha tutto un rituale. Si affida a questi percorsi. Si affida al marabutto. che è questa specie di quasi stregone, direi, che con la scusa di fare delle magie, dei riti propiziatori, magari sì, visto che lei non ha soldi, cerca di approfittare di lei e della sua bellezza. E anche lei chiaramente ha una storia alle spalle molto dura, molto diversa da quella del marito, perché lei ha ricca la cicatrice molto forte, direi quasi una ferita ancora aperta, anche letteralmente, della escissione, cioè del taglio iniziatico del clitoride. Certo, infibulazione. Adesso non ricordo il termine, però qui, è una pratica violentissima. Sì, cruenta. Qui viene chiamata escissione ed è appunto una pratica molto violenta che lei ricorda, che la ossessiona. Ah, certo. E il libro è molto... qui si rivela che è un bel libro, diciamo, perché lei ricorda questa cerimonia di iniziazione, ricorda come era andata verso questa cerimonia piena di gioia, perché le dicevano tutti, ah, così diventi donna, vieni ammessa nella comunità degli adulti, eccetera, e come ne era uscita praticamente quasi morente. L'autore racconta questa, in un flashback, questa cerimonia, però non lo fa né in maniera violenta né in maniera splatter, per cui tu, che per noi è importante, sì, questo. Per noi è molto importante, cioè non lo fa in maniera morbosa tu, e nello stesso tempo però quando lo leggi proprio percepisci il male che ha avuto questa ragazza senza che lui si soffermi tanto sui particolari cruenti. E vabbè, questa è una delle tante cose che vengono raccontate del passato di queste due persone, che adesso si ritrovano a vivere insieme, ma a causa soprattutto di questa mancanza di figli non hanno quasi più niente da dirsi, anche se lei continua appunto a... lui non fa più niente e lei continua a mantenerlo con questo lavoretto, con questo lavoro, anche pesante peraltro, di andare a portare il cibo ai portuali, ai lavoratori, al porto, alla mattina presto la colazione, a mezzogiorno il riso cotto. La pausa pranzo. La pausa per pranzo, i lavoratori. Sì. E intanto allora ricordo che E O sono queste due congiunzioni, è il nome che ha scelto questa casa editrice che già abbiamo presentato, e ha uno sguardo appunto come congiunzione, no, con altri mondi, e si continua anche in questo caso a portare un'attenzione a una letteratura extraeuropea. Direi che mi sono dimenticata di dirlo, l'autore è ivoriano. Sì. Quindi siamo sulla Costa d'Avorio. Ma hai parlato di Malinka? Malinké, sì. Scusa, sì, e sì, mi è venuto sì. In mente la Costa d'Avorio. Però bisognava dirlo. Certo. E le EO sono, direi che oramai sono specializzate in letteratura. Infatti. Africana, e stanno facendo per me un lavoro molto, molto importante per far conoscere questi autori. Che merita. Ripeto, questo è un libro fondamentale che però non era ancora presente sui nostri scaffali. Hai portato insieme a Stefano, ho visto anche una partenza nella playlist musicale con un'autrice, Angelique Kidjo. Sì, non è casuale. No, la playlist ho scelto di fare una playlist tutta femminile, sì, perché in effetti in questo romanzo le donne sono i personaggi forti, non gli uomini. E ci sono due nella playlist, ci sono due autrici di colore e due autrici no. E so che quando parli così dal punto di vista del genere io approvo, perché so che hai una modalità di pensiero su queste cose che è molto forte e nello stesso tempo va controcorrente, e come tu sai amo le persone controcorrente. Se tu leggi questo libro, chiaramente il personaggio più bello è quello di Salimata, cioè della moglie. Sì. Che malgrado tutto quello che ha sofferto resta una donna forte, una donna molto positiva e anche, ripeto, molto buona. Per quanto riguarda il brano che ascoltiamo adesso, è un disco che io trovo molto affascinante, nel quale la Angélique Kidjo ha rifatto tutto il disco più importante dei Talking Heads, cioè Remaining Light, e l'ha rifatto proprio in modalità, direi, africane. Ascoltiamo il primo brano. Ascoltiamo il primo brano. Born Under Pansies, che è appunto un brano. È anche il primo brano di Remaining Light. L'ha ripreso. Adesso senti come l'ha ripreso. Congo. Elisa, dai il buongiorno, mi sono appena collegata. Parlate di Allah, non è mica obbligatorio. No, non stiamo parlando di Allah. No, assolutamente no. No. Paolo, oh buongiorno Paolo, ti aspettavo. Paolo e prole allegata, oggi giornata, magari inizia oggi adesso l'anno scolastico, non so, ognuno prende un po' quest'inizio a modo suo in tutta la penisola, quindi non ho esattamente l'idea, nel dubbio l'ho identificato come la data odierna in tutti i modi. Grazie Paolo, o Terenzo che dir si voglia, ti auguriamo una buonissima giornata. No, è stata travisata forse in alcuni tratti, ma molto, questa presentazione. No, no, non stiamo affatto parlando di un aspetto islamico o di religione musulmana, no, no. Ah, e per quanto riguarda, non è mica obbligatorio, ha mandato anche un link e magari ci guardo in seguito per completare il messaggio al 333-180-9494. Comunque, buongiorno. Speriamo che non sia un No, un link ha mandato adesso con tutti i miei tempi tecnici per quanto riguarda la digitalizzazione. Sarà mia cura approfondire, abbiamo tempo, abbiamo anche il quiz e comunque stavo dicendo grazie Elisa per il buongiorno. Libro appena presentato, poi volevo chiedere alcune cose a Silvia. Autore, titolo, casa editrice. Autore Amadou Kourouma. Titolo I soli delle indipendenze, edizioni E.O. Arriverà anche recensione dal Manifesto, questo potrebbe essere papabile per Alias Domenica, non si sa. No, io non credo. Non credi, No, non credo perché in questo momento... Non ho molta spinta. Non ho molta spinta. Parola torna indietro. No, anche e poi questo è un libro francese. Di solito loro sono molto. Hanno recensori per ogni letteratura. Cioè, non so per quale motivo, ma io so di francese. Sono chiamata a recensire soltanto Le Maître. Beh, mica male. No, mica male. Mica male. Assolutamente. Ah, per quanto riguarda la ufficializzazione di inizio anno, mi sta dicendo che qua a Bologna invece è venerdì. Grazie Paolo. Mi sembra... Dicevo che mi sembra una cosa molto intelligente iniziare le scuole di venerdì per poi essere già a casa il sabato e la domenica. Si riposano. Veramente. È iniziato anche il Breakfast Club di venerdì, non posso dire niente. Per... No, ma... È un po' diverso. Un pochino diverso. Cioè penso anche a quei genitori che devono sistemare, che devono andare a scuola, portare a scuola i figli e organizzarsi solo per un venerdì. Ma come... E poi stare a casa due giorni. Appunto, poi stare a casa due giorni, vabbè. Famoso buon senso. Ah no, parlava di un importante scrittore ivoriano e si è confusa con il T9. Daremo assolutamente notizia, titolo e quant'altro in maniera più precisa. Non era una critica a noi, era capito. Un consiglio letterario che Elisa ha voluto portare in aggiunta alla tua presentazione. Peraltro molto bella come di consueto con questi soli dell'indipendenza delle indipendenze, anche questo infatti, è bello infatti. Perché loro parlano di indipendenze al plurale e tutto il libro è scritto così. Io penso che il traduttore abbia avuto un lavoro veramente difficile. Perché in qualche modo Kourouma, l'autore, forza la lingua francese sia dal punto di vista sintattico sia dal punto lessicale per esprimerla come se fosse malinché. Quindi loro dicono indipendenza al plurale, tanto per dirne una. E poi tante altre particolarità, sì. Immagino. Sì, io devo dire, io non conosco questo traduttore, questa traduttrice che si chiama Monica Amari, però ha fatto un gran lavoro, secondo me, perché il libro si legge benissimo, cioè non senti una forzatura del passaggio ulteriore da una lingua di traduzione a un'altra lingua di traduzione. Sto arrivando al libro di Elisa, piano piano, sto facendo conduzione, mettendo la playlist, la base, portare i tempi giusti radiofonici e nello stesso tempo pensate poi con la mia abilità dal punto di vista digitale cosa può saltare fuori, però sto arrivando anche a questo lavoro che è Allah non è mica obbligato di Amadou Kourouma. È lui e quindi è un altro. Sì, infatti la EO prima di questo libro, che è il suo primo libro però... Scusaci Elisa. Prima di questo libro, che è il primo lavoro, l'opera prima di Amadou Kourouma, aveva già pubblicato sia Allah non è mica obbligato, sia un altro libro, Aspettando il voto delle bestie selvagge. E si scusa, anzi ci scusiamo noi, perché nel primo messaggio è uscita la parola obbligatorio, è per quello che... No, siamo noi che abbiamo travisato. No, adesso ho capito anch'io. Elisa diceva che si era che si era collegata più, a trasmissione iniziata. E quindi non aveva. Quindi ha sentito parlare di Kurumà. Pensava che parlassimo di Allah non è mica obbligato, invece parliamo di questo I soli delle indipendenze che è appena uscito. Poi un'altra segnalazione, intanto buongiorno, un'altra segnalazione è l'africano solitario. E aspettiamo anche altre indicazioni, né io né Silvia conosciamo questo lavoro, per saperne di più comunque magari possiamo avere ulteriori informazioni sempre al 333-180-9494. È il momento del quiz, sì. Direi, che noi siamo qui per il libro a sorpresa, sono anche un po' emozionato. Allora, lo torno a dire, non metto in palio I soli delle indipendenze, ma ho qui sul tavolo, e poi lo lascerò a Willy, un libro incartato che è un libro a sorpresa, per cui chi indovina il quiz sa che si porterà a casa un libro misterioso. Certo. Vi posso dire di soltanto qualità. Che è un libro qualità. Americano. Allora concludiamo con l'africano solitario, grazie Dario e grazie Samantha, libro appunto su cosa abbia lasciato agli africani la colonizzazione, quindi attinenze. E siccome si senta isolato, un africano che dopo essersi istruito alla maniera europea prova ad aiutare I suoi vecchi concittadini. È di Colin Turnbull questo lavoro. Quindi dal nome direi di un occidentale. Di un occidentale, sì. No, grazie, non lo conosco. Intanto, grazie. Quiz. Allora, visto che il quiz è simile a quello della settimana scorsa, visto che il titolo del nostro libro parla di soli, e che anche il libro misterioso si ambienta tutto in un'estate assolata, io vorrei vorrei da voi tre titoli di canzoni, attenzione canzoni stavolta non film, che abbiano tre titoli di canzoni che abbiano la parola sole appunto dentro. Non è difficilissimo, però aspettiamo le vostre tre risposte. Tre canzoni con la parola sole nel titolo. Per avere il lavoro misterioso, libro misterioso che arricchirà la vostra biblioteca. Inizia il palinsesto definitivo in modo molto curioso. Brava Silvia, tre canzoni che nel titolo abbiano la parola sole. Fiona Apple, stacco musicale che ci traghetta la pubblicità e poi torniamo nuovamente assieme con il Voltiamo Pagina. Che brano hai selezionato? Allora? Il primo. No, l'11. No. Il numero 11. E questo, il titolo è molto particolare, ha delle ritmiche africane anche quello. Cosmonauts. A tra poco. Treating his wife like less than a guest, getting his girl to clean up his mess, never showing weakness unless it's war season. It's the season of the war, and she's trying to cut the cord. She's tired of planting her knees on the cold hard floor of facts, trying to act like the other girl acts. And your strike may have been exact, but you know that you never really go to the mat. You tie everything up pretty in the second act, when you know that it didn't go exactly like that. You arrive and drive by like a soft stuff bat. Like you know you should know, but you don't know where it's at. Like you know you should know, but you don't know where it's at. Like you know you should know, but you don't know where it's at. You arrive. My thoughtless hands il problema era del CD per Fiona Apple saltellante, capita, noi sapete che usiamo supporti originali, tant'è, ho avuto il pensiero che fosse il lettore. Il brano di Esperanza Spalding invece in rientro diretta sta andando. Fly da un disco molto bello, Chamber Music Society. Lei è contrabbassista molto talentuosa, cantautrice, compositrice. Vincitrice del quiz, ufficialmente la nominiamo in questo momento coi tre titoli: La canzone del sole, O sole mio, Sotto questo sole. Il notaio ha approvato e noi pure, Silvia. Sì, sì. Perfetto. Libro misterioso vinto da Sabina. Bene. A lunedì con il saggio dei grandi cuochi, dei dittatori. Ieri abbiamo presentato Chi segna regna per immagini dai playground. Quest'oggi il libro misterioso, ora ne presento velocemente uno io. I libri sono da ritirare alla libreria Ubic da domani in via Irnerio 27. Grazie per la collaborazione alla libreria Ubic. Salutiamo le ragazze di questa libreria e oltretutto vi posso aggiungere che avremo una continuità di presentazione sempre con la collaborazione Ubic. Generoso Breakfast Club di quest'inizio settimana, c'è anche la sorpresa, quindi insomma, giustamente a lunedì la vincita di Luigi, ieri Lino, che mi hanno chiesto ma dove dobbiamo ritirare a questo giro il premio, ecco, quindi una comunicazione di servizio che è arrivata. Intanto che sta sfumando il brano di Esperanza Spalding, continuiamo con la presentazione di un lavoro e Silvia, qua la sorpresa te la porto io, è una novità. È un libro a Delphi, sai che di solito io non sono molto, è una novità. Lui è Michael Bible o Bible, che non conosco e neanche non io conoscevo. È uno dei suoi primi lavori, è stato tra l'altro accolto con un grandissimo entusiasmo. Letteratura americana, di cui non sono un grande amante, ma che in questo caso esce un po' dagli schemi per quanto riguarda questo tipo di narrazione. A me ha ricordato tantissimo, non vorrei sbagliare il titolo, l'autore era Eugene Banks, Il dolce domani, un lavoro che è stato pubblicato in Italia da Einaudi, un libro che io consiglio assolutamente perché è uno dei libri a proposito di letteratura americana che più mi hanno colpito. Comunque, veniamo all'ultima cosa bella sulla faccia della terra, è un'edizione a Delphi, lui è Michael Bible, che non conoscevo. Di che si tratta? Si tratta di un episodio che in un piccolo paese sconvolge una comunità. Un uomo, un personaggio, non dico un ragazzo, ma già più adulto, solo perde il suo migliore amico, la compagna lo abbandona o non riesce a allacciare i rapporti con la persona amata. Questo cade in una depressione tremenda, qualcosa se la prende con la comunità, se la prende con tutti, se la prende con se stesso e appunto, gesto estremo, decide che la sua vita non ha più senso, che fa la tipica soluzione, se vogliamo anche non dico spettacolare, però ricordate, no, i bonzi che si cospargono di combustibile e poi si infiammano? Ecco, in questo caso questo protagonista decide di farlo in una piccola parrocchia di provincia. Le cose non vanno come dovevano andare, cade il fiammifero all'ultimo secondo come il liquido combustibile, la chiesa andrà incendiata. La chiesa era piena, 25 fedeli di questa comunità tra il fumo e tra le ustioni perdono la vita. Lui si salva, ma sarà una vera, ovviamente, maledizione. Viene condannato a morte, viene arrestato e in seguito condannato a morte. Il lavoro parla di tutto quello che è intorno, come nel Dolce Domani, in seguito a un incidente d'autobus, no? La situazione è un po' diversa. Quello che posso mettere in parallelismo è come questa piccola comunità esce poi a nudo e allo scoperto in seguito a questa tragedia, in seguito a questo gesto estremo, e si vedrà appunto il percorso di tanti personaggi che diventeranno a fianco del protagonista altrettanto importanti per una scrittura tipicamente americana, ma che dà alle micro sensazioni nascoste di un piccolo paese, di un piccolo villaggio nel North Carolina, luci, ombre, vizi e virtù, tutte in relazione a questo episodio che ha segnato definitivamente, e ci credo in negativo, i percorsi dei personaggi che sull'ultima cosa bella sulla faccia della terra, da un titolo così poetico come del resto Il Dolce Domani di Eugene Banks, vengono improvvisamente trasformati in qualcosa più simile a un inferno. Dimmi tu. Russell Banks. E Eugene Banks è un altro personaggio. Io ti ringrazio tantissimo per questa correzione, quanto mai precisa. Vedi, io coi nomi, insomma, l'hai letto quel libro, Il Dolce Domani? No, non l'ho letto. È molto bello. Di avere visto il film, però. Ah, ne hanno fatto un film, sì, anche. Sì. Pensa che il quiz per mettere in palio L'ultima cosa bella sulla faccia della terra di Michael Beeble, edizione Adelphi, riguarda un altro aspetto tra letteratura e cinema. Quindi la tua correzione, oltre che essere molto precisa e puntuale, mi dà anche la possibilità di portare con l'ultimo stacco musicale selezionato da Silvia Albertazzi e Stefano Calanchi la possibilità di far vincere a voi questo lavoro che, ribadisco, non conoscevo. Come autore Michael Beeble, L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, edizioni Adelphi, lettura tipicamente americana, un libro che velocemente riuscirete a leggere, ma che vi lascerà ovviamente un palcoscenico quanto mai esteso che viene scoperto in seguito a questo gesto estremo del protagonista. Allora, abbiamo parlato di letteratura e cinema che poi viene trasformata sul grande schermo. Beh, per me un capolavoro assoluto è la versione di Barney che ho citato ieri anche in rassegna stampa. Mi dite l'autore, che è il mio autore di origine ebrea americano preferito, tra l'altro, della versione di Barney. Non sto parlando del regista del film, non sto parlando di attori, non sto parlando di... No, di letteratura. Chi è l'autore del capolavoro, la versione di Barney? Lo aspetto al 333-180-9494 e per voi L'ultima cosa bella sulla faccia della terra. A tra poco, buon ascolto. Why strain yourself with what? everything happens by itself. Intanto mi correggo e ribadisco per quanto riguarda il quiz. L'autore della versione di Barney si stava parlando di letteratura americana, allora io frettolosamente, sì, americano è americano, ma l'autore è canadese, giustamente, come ha precisato Silvia, quindi presto la confusione magari nell'esposizione per quanto riguarda il parallelismo che stiamo portando con gli autori oggi alla Breakfast Club nel Voltiamo Pagina. Allora, ribadisco, Michael Beeble, L'ultima cosa bella sulla faccia della terra, le edizioni Adelphi, l'autore canadese della versione di Barney, in questo caso così ho enunciato perfettamente, dopo il brano di Barbara Manning che ha portato a conclusione la nostra playlist di oggi. Beh, metto un altro po' di musica per darvi il tempo, nel caso ci fossero le risposte che io poi aspetterò anche durante Liberi Dentro e durante l'Edipeo enciclopedico, e beh, quindi avete il vostro tempo. Chi è l'autore della versione di Barney, di cui ne è stato fatto anche una bellissima pellicola? Non ha deluso il film, di solito sapete. Esatta da tre appassionati, oltre che di letteratura del Voltiamo Pagina. È un podio, quindi iniziamo al terzo posto. Nora Mordecai Richler, risposta esatta. Poi anonima la ascoltatrice o ascoltatore che mette solo il nome, la risposta, aspettiamo anche il tuo nome almeno per darti un saluto e ringraziarti. Sta arrivando adesso, ovviamente lo daremo. Mi pare che il primo sia stato Dino, che ovviamente è un fedelissimo, ma che è arrivato secondo lunedì per quanto riguarda la risposta del quiz al saggio, oggi puntualissimo in prima posizione. Martina, brava che ti sei fermata per scrivere, ma mi sono fermata per scrivere, per quello che ero di fretta non ho messo il nome. Beh, onore al merito alla tua prudenza, brava. E un saluto anche a Samantha Mordecai Richler, esattamente, grazie vincitore Dino per questo lavoro di Michael Beeble, L'ultima cosa bella sulla faccia della terra. Noi abbiamo terminato e vi ringraziamo tantissimo per la partecipazione. Silvia, appuntamenti di presentazione? Niente, no, a posto. Questo momento non hai una gran spinta. Non ho una gran spinta e quindi la spinta per il Breakfast Club sarà mercoledì prossimo, ora il video delle pubblicazioni della settimana. Libro a sorpresa è una bella tradizione, magari lo avremo anche per la prossima puntata. E noi auguriamo a tutte, a tutti una buonissima giornata e un buon ascolto. Ciao Silvia, al prossimo mercoledì. Ciao Willy e ciao a tutte e a tutti.